известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. The Fiat Topolino, one of Europe's first economy cars. It taught Europeans how to spare the fuel without sparing the fun. Direct descendant of Topolino is the Fiat Strada. Strada combines the best gas mileage of any compact car in America with room. C'era una predestinazione attorno alla Red Funky Fiat, come l'ha chiamata President Obama, una macchina un po' sexy, insomma, a sentire quello che ha detto il 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America, dando in un certo senso la benedizione, il benvenuto e forse anche qualcosa di più alla cooperazione che si dovrebbe avviare tra Chrysler e Fiat nei prossimi giorni, sulla base di quanto detto e stabilito ieri. Una notizia che sta ricevuta con grande calore dall'amministrazione dell'amministratore delegato di Fiat Marchionne, che ha ringraziato il presidente Obama per il suo incoraggiamento a finalizzare una solida alleanza tra Chrysler e Fiat. Marchionne si è anche detto convinto di poter conseguire risultati che daranno un futuro credibile al settore auto, e si è detto anche felice che tocchi proprio alla Fiat giocare questo ruolo chiave in uno sforzo così importante. Di tutto questo in una edizione del programma piuttosto densa di appuntamenti e di contenuti parleremo però tra circa mezz'ora, quando con un ospite approfondiremo gli aspetti, i risvolti e anche le dinamiche di questo accordo, che ha comunque tutto il peso per essere considerato epocale. Perché nel frattempo si è alzato in volo l'aereo di Barack Obama e del suo poderoso seguito, anzi gli aerei, perché è una vera e propria flotta quella che si sta spostando, si è già spostata naturalmente alla volta di Londra in occasione del G20. L'atterraggio di Obama, e credo che sia piuttosto puntuale in questi casi, è previsto per le 19:50 ora di Londra, e c'è naturalmente una grandissima attesa. Sentiamo come solo pochi minuti fa lo ha raccontato Fox News. President Obama's first overseas trip will be anything but easy. He'll face anti-war protests, calls for the US to get out of Iraq and Afghanistan, and overshadowing everything, the global recession for which many. La sostanza che sta dicendo, che sta presentando questo cronista è questa: abbiamo visto Obama in un viaggio di straordinario successo nello scorso luglio, quando non era presidente degli Stati Uniti d'America ma era un candidato in campagna elettorale, e ricorderete con quanta passione venne accolto e quante critiche anche furono destate da quell'eccesso di passione, forse da quel certo eccesso di presidenzialità, no? Negli atteggiamenti tenuti da Barack Obama, nelle parole pronunciate, nei discorsi e fatti, nelle cornici, negli sfondi scelti per presentarsi agli europei, uno per tutto il discorso di Berlino, un vero e proprio bagno di folla che venne paragonato ad altri episodi come Kennedy, come Ich bin Berliner, no? Il celebre discorso di JFK, però pronunciato in veste di presidente. Ora Barack Obama la presidenza l'ha vinta, l'ha occupata, l'ha avviata, e tutti i motori girano insieme. Questo appuntamento, come abbiamo descritto a più riprese, è talmente carico di aspettative ma anche di interrogativi da dover essere seguito e anche un po' vivisezionato, cosa che cercheremo di fare con il contributo anche di diversi inviati, ma che oggi, visto che siamo alla vigilia dei lavori, abbiamo pensato di invece affidare alle vostre aspettative, motivo per cui ascolteremo nello spazio che abbiamo battezzato Express Yourself i vostri pareri, le vostre aspettative, anche le vostre non aspettative, cioè i vostri scetticismi attorno al G20 di Londra, per quelli che avete segnalato con il consueto scambio di mail, messaggi, bacheche e quant'altro sulle nostre pagine di Facebook. Ecco qua, l'arrivo previsto 19.50, appunto è arrivata la conferma, atterrerà a Stansted, dove atterrano i charter, non a Heathrow, anche perché per motivi di sicurezza Stansted è sempre stato preferito a Heathrow. L'aereo è partito dalla base di St. Andrews alle porte di Washington. C'è tantissima naturalmente curiosità per vedere l'impatto di Obama presidente con l'Europa, e c'è una curiosità appena un paio di gradi inferiore per vedere l'impatto di Michelle Obama con l'Europa, con il mondo, soprattutto con i media, con la regina Elisabetta. Oggi ci sono fior di siti seriosi e importanti che si fanno domande altrettanto epocali: andrà senza maniche o andrà con le maniche? Io scommetterei, metterei i soldi sulle maniche. Poi l'incontro che il quotidiano USA Today, che deve avere un signor titolista, definisce due galassie in collisione. Due galassie in collisione, e chi sono le due galassie se non Michelle Obama e Carla Bruni Sarkozy, che a un certo punto si presenteranno, faranno amicizia, daranno questo esempio di grazia, stile, ispirazione, forse anche insopportabilità e invidia da parte di tutto il mondo. Comunque è un momento naturalmente molto atteso dai media di tutto il mondo. Tra l'altro trapela la notizia, sempre relativa a questa poi visita, no, che Barack Obama farà a Praga, insomma in Italia, a denti stretti, l'hanno detto in parecchi: ma perché a Praga sì e in Italia no? Perché va in tanti posti, va in Turchia, non viene da noi? Beh, pare che sia uscita la soluzione al problema, e la soluzione è la più vecchia, cioè prendi carta e penna, caro primo ministro, ministro degli esteri, chi per lui, scrivi e magari ti verrà risposto. Infatti pare che sia proprio una lettera scritta a Barack Obama 2 mesi fa dall'ex presidente e dissidente ceco Václav Havel a determinare, a convincere il presidente americano a venire a Praga per il vertice del 4-5 aprile. Ne parla una agenzia ceca, e Havel incontrerà Obama a Praga, ha confermato di avergli scritto e si è detto poi anche molto sorpreso del fatto che la sua lettera abbia potuto giocare un ruolo di questa portata. Tra l'altro Barack Obama è partito dagli Stati Uniti, è partito da Washington con nella sua 24 ore, nella sua cartelletta, un foglietto incoraggiante. Infatti al momento del decollo gli hanno dato i risultati di un sondaggio Washington Post ABC News, che oggi è pubblicato su tutti i giornali americani, secondo i quali il presidente nei pensieri, nei giudizi dei cittadini americani sta guidando il paese nella giusta direzione. I cittadini americani ritengono che la grave crisi internazionale, che non ha certo risparmiato l'America, sia da addebitare agli eccessi dell'industria della finanza più che alle scelte politiche del presidente. La percentuale degli americani che si è detta fiduciosa sul cammino intrapreso dal paese è sotto la soglia del 50%. Quelli che si dicono soddisfatti sono il 42%, ma questa, attenzione, è la percentuale più alta mai raggiunta in un sondaggio dello stesso tipo negli ultimi 5 anni. Inoltre 2/3 degli americani approvano il modo in cui il presidente starebbe gestendo i dossier più importanti. Ci prepariamo a spostarci di scenario perché altre notizie importanti sono in arrivo, però un momento, perché voglio darvi ancora conto di questo parere espresso, devo dire, in modo piuttosto sonante, in modo piuttosto clamoroso da Ralph Dahrendorf, il grande sociologo tedesco, di origine tedesca. È uscito anche sul Corriere della Sera l'articolo in cui c'è un giudizio pesantissimo di Dahrendorf nei confronti del G20. Secondo lui fallirà, non raggiungerà gli obiettivi che gli erano stati dati originariamente, cioè essere il momento decisivo per uscire dalla crisi e ridisegnare l'ordine economico internazionale. Dahrendorf sostiene che il vertice fallirà per molti motivi, ma soprattutto perché quello che stiamo vivendo non è un Bretton Woods moment, un momento sul genere di quello che nel 1944 in sede di conferenza portò Keynes, per esempio, a credere di andare a salvare la sterlina, salvo poi accorgersi che nel frattempo era morta e che il ruolo dominante nel mondo era già passato al dollaro agli Stati Uniti. Ma adesso la situazione è diversa, questa è una fase confusa, dice Dahrendorf, non ci sono vincitori, non sono nemmeno certo che l'America voglia caricarsi sulle spalle da sola il peso dell'uscita della crisi, ma non è l'unica ragione per cui il vertice non sarà un successo. E poi ne elenca anche molte altre l'articolo di Ralph Dahrendorf. Ma come dicevo, spostiamoci ora invece sullo scenario israeliano, perché con molte notizie, contronotizie, smentite e quant'altro si starebbe andando al giuramento del nuovo governo di Israele, faticosamente messo insieme e guidato da Netanyahu. È in programma oggi alla Knesset il giuramento, ma ci sono sussulti, effetti collaterali, forse neanche tanto collaterali, ma ci può dare un aggiornamento e forse anche un quadro più generale la nostra consueta ospite per questo argomento, ovvero Maria Grazia Enardu, che saluto. Ciao Maria Grazia. Buonasera a voi. Allora, che succede? È vero che c'è una possibilità di un colpo di coda di Lieberman, questo personaggio che è apparso alla ribalta e si è subito dimostrato, come dire, piuttosto vivace, insomma, nella sua condotta di vertice. Che cosa sta succedendo? Pare che la possibilità che Lieberman si tiri fuori sia sfumata. Il problema era che il numero due del Likud, Silvan Shalom, è rimasto fuori da tutti i grossi posti, aveva vivacemente protestato e l'unico modo per accontentarlo era o le finanze, che però Netanyahu vuole dare a un suo fedelissimo, o gli esteri, appunto togliendolo a Lieberman. Pochi minuti fa pare che questo dissidio interno sia rientrato e Shalom ha avuto il posto di vice primo ministro più un ministero sviluppo regionale, che può essere tutto o niente a seconda dell'interpretazione. Quindi è una battaglia di poltrone, essenzialmente. Una battaglia anche interna al Likud, perché noi in queste settimane abbiamo seguito l'incollaggio di vari partiti per fare un governo, ma il Likud è una grossa nave e quindi è anche difficile da governare in sé per sé. Ho capito. E di qui in avanti lo scenario qual è? Supponi, possiamo supporre una alla fine un varo del governo senza ulteriori scosse? Perché sulla carta la maggioranza di questi sei partiti è molto ampia, certo. 74, certo. Quindi se qualcuno dei laburisti o qualcuno dei religiosi o anche qualcuno del Likud avesse, non tanto in sede di formazione della coalizione, ma successivamente qualche dissidio, si fa presto a sostituirlo, basta rimanere entro la quota 61. Il problema è che questa è veramente una coalizione variegata, perché c'è tutta la destra, salvo la destra estremissima dell'Unione Nazionale, c'è la sinistra, se vogliamo così definire i laburisti dopo tutte queste vicende, e paradossalmente c'è anche l'elemento moderato, con qualche virgoletta, di Lieberman, perché Lieberman ha posizioni assai criticabili e contestabili. Beh, stiamo assistendo a un notevole slittamento quindi della posizione di Lieberman da come c'è stata presentata in origine, o no? Sì, Lieberman è quasi un moderato per quanto riguarda i territori. Cioè Lieberman non è attaccato alla Giudea e alla Samaria, lui è un ebreo russo e quindi poco attaccato a questi sentimenti, però come moltissimi russi è anche xenofobo. Lui preferisce uno Stato di Israele, è una terra di Israele piccola ma con tutti ebrei e quasi niente arabi, e per far questo lui è disposto a rinunciare a buonissima parte della West Bank, certo. E anche paradossalmente a una parte di Israele entro i confini del 67 per liberarsi di arabi israeliani. Quindi lui ha una lettura del territorio completamente diversa da quello della destra. Una lettura quasi razziale, certo. Esatto, dei partiti religiosi e anche di buona parte dei laburisti. Senti, Maria Grazia, per concludere ti farei ascoltare questa brevissima dichiarazione di Netanyahu registrata un paio di giorni fa, in modo che tu ce ne possa magari dare insieme un commento. I Palestinians should understand that they have in our government a partner for peace, for security and for rapid economic development of the Palestinian economy. Insomma, un Netanyahu estremamente, come dire, accomodante, per non dire invitante, si rivolge ai palestinesi, dice devono capire che hanno in noi degli interlocutori, dei partner in vista del miglioramento delle prospettive in tutti i vari soliti settori che si tirano in ballo in questo senso. È un discorso, sono delle parole che possono suonare quasi programmatiche o sono parole così d'occasione? E lui è molto abile, molto intelligente. Lui parte dal concetto di sviluppo economico per accontentare i palestinesi e su questo costruire una pax israeliana e una sicurezza israeliana. Questo non è accettabile da Hamas e credo che ormai non sia accettabile da larga parte di Fatah e dell'autorità palestinese. Va bene, stiamo a vedere la concretizzazione, il varo di questo governo, poi magari lo commenteremo ancora. Molte grazie a Maria Grazia Nardu che come al solito ci ha dato una mano. Abbiamo messo Bob Marley, caro Emiliano, non sapete né leggere né scrivere, insomma, che c'è tutti questi, no? Tutte queste nuove unioni, chiamiamole così, la Fiat che sbarca in America, al G20 c'è questo raduno di teste più o meno coronate, o comunque coronate almeno a tempo determinato, in Israele fanno un governo che dire grosso e coalizione, no? è una passeggiata, è una specie di formidabile Macedonia che comunque sta in piedi, come ogni buon carrozzone, poi potrà anche dimostrare dei pregi che per ora non vediamo. Alla fine quella tedesca è andata avanti per anni. Appunto, quindi noi mettiamo un augurale Bob Marley che dice "Is this love?". Insomma, questa è una formula, no, di trovare della empatia nascosta da qualche parte. Poi ci dedichiamo, come vi ho annunciato in apertura, a passare a voi la patata bollente, ovvero vi abbiamo chiesto oggi nel nostro consueto spazio via mail, no, la nostra pagina di Facebook che si chiama Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. Vi ha mandato la mail stamattina presto, c'era scritto che lo spettacolo cominci, abbiamo detto il G20 che prende le mosse a Londra tra 48 ore, potrebbe essere una passerella del potere venata di glamour, potrebbe essere un vertice semi-miracolistico, no? Dove quelli che possono davvero, tra molte virgolette, raddrizzano con un colpo di bacchetta le sorti del mondo, oppure anche no, per lasciar perdere poi proteste, polemiche e quant'altro circonderà l'appuntamento. Vi abbiamo chiesto dal vostro punto di osservazione qual è l'obiettivo più importante di un evento del genere, quello in nome del quale, insomma, questo carrozzone che costerà, non vogliamo neanche immaginare quale, insomma, trova il proprio motivo di esistere. allora, intanto bisogna dire che a naso, sfogliando così tra i messaggi come sempre numerosi arrivati in bacheca, non c'è una grande fiducia in questo G20, ecco, che se vogliamo appare come una sorta di casta, parola molto di moda in questi anni anche qui in Italia, una casta su scala mondiale, insomma, quindi un grande appuntamento che però non porta a nulla, è un modo anche per mediatico, per far soldi. Vabbè, comunque comincio subito con Nikita che dice: nessun meeting ha mai risolto nulla, le cose si risolvono prima. Beh, e poi non è tanto vero, si fa, quindi lui dice le cose si risolvono prima e solo dopo si fa un bel meeting per ufficializzare la decisione. Poi c'è Pierluigi: spettacolo mediatico e parastrategico. Questo parastrategico non so bene cosa voglia dire. Serve a far sentire tutti parte di un destino globale, ma le vere scelte, le vere strategie si studiano altrove. Più ottimista Gabriele Battaglia, nostro amico che ci scrive costantemente: è una cerimonia con tutto il suo valore simbolico, ancora più simbolico il fatto che ora siano in 20, quindi si allarga di anno in anno. La posta in gioco è la redistribuzione effettiva, parola molto importante, anche molto temuta dall'altra parte dell'oceano. Vediamo poi se arriverà a qualcosa. Flavio dice: così come adesso non ha motivo di esistere, punto. Mauro invece dice: uno solo, lo scopo centrale, il lancio o rilancio di una economia verde, solidale e scaccia crisi. Se poi ricominciassero a parlare di acqua come diritto, è un'altra aggiunta di Mauro che mi sembra un tipo pragmatico. Luigi: la crisi sta continuamente cambiando gli scenari internazionali. In questo contesto incontrarsi per parlare è molto importante, soprattutto per cercare di creare equilibri che aiutino la ripresa. Quindi Luigi crede nella rappresentazione, crede che anche la rappresentazione abbia una sua validità. Matilde invece non è d'accordo, dice: a me manca ancora da capire a cosa servono questo tipo di incontri. Ce ne sono tanti che non hanno capito a cosa servono i G20. Anche Stefano comunque è fiducioso, dice: credo che questa sia davvero la più grande occasione, forse anche l'ultima, per dimostrare se davvero tutto questo carrozzone mediatico sia utile o meno. Mai come oggi si sente la necessità di una strategia mondiale per superare la crisi. Poi c'è Lorenzo che si accoda invece ai giudizi negativi: credo che i grandi vertici non servono a nulla, però è interessante la seconda parte del suo messaggio. Io nel 2001 ero a Genova e poi a Davos e sono andato anche ad altre manifestazioni antivertici, quindi gira il mondo il nostro ascoltatore, e diciamocela tutta, fanno più notizie agli scontri dei manifestanti ed eventuali, certo, devastazioni che le decisioni prese o non prese dai vari capi di governo. Speriamo che questa volta non succeda intanto nulla di grave dal punto di vista della cronaca. Tanti la pensano in modo veramente scettico. Gabriele dice: farvi sboccia alla facciaccia del mondo intero. Annalisa dice: si tratta di uno show, quello che mi meraviglia è che qualcuno ci creda ancora. Massimo, che mi sembra un altro ragazzo pragmatico, dice: in un'epoca, la nostra, dove si fanno videoconferenze, questo carrozzone mediatico sa molto di autocelebrazione con banchetti inclusi a carico del contribuente. Quindi per ora scarsissima fiducia accordata ai governanti, fermo restando che se poi dai cilindri, no, dai loro preziosi cilindri, tireranno fuori il coniglio, poi forse bisognerà rivedere questi giudizi. 360 gradi, news dai punti sensibili del pianeta. Abbiamo un minuto, una per uno, dai. Sì, dunque, gira da qualche giorno la notizia di una rete di hacker cinesi che sta devastando il mondo, insomma. Parla adesso, Fox News ha rimandato la notizia che domani, 1 aprile, c'è un worm, un... come si chiama? Un avviso, una, no, no, un allarme? No, no, di computer. Ah, di computer, un... è un quiz. Virus, un grazie. Grazie, scusate. Forse arriva dai cinesi. Un virus nei computer molto pericoloso, intitolato proprio al 1 aprile. Insomma, dal Canada è venuta questa notizia che c'è questa rete di hacker cinesi che, insomma, ha spiato un 160 stati, vari migliaia di computer, tra cui quello del Dalai Lama. Naturalmente i cinesi hanno respinto al mittente le accuse dicendo che sono menzogne, c'è questo clima che sopravvive da guerra fredda. Però oggi in un'intervista alla CNN il Dalai Lama l'ha buttata anche sul ridere, ha detto: i cinesi dovrebbero spiare di più e meglio, così saprebbero cosa stiamo facendo e pensando realmente. Sono molto sospettosi nei nostri confronti e hanno anche molte informazioni distorte. Si chiama Festival della Città Impresa, ideazione e organizzazione, nordesteuropa.it, Corriere della Sera e Radio 24 tra i molti sponsor, intorno a un complesso convegno con incontri e partecipazioni tra le più varie e ricche, con temi come innovare per vincere la crisi e 3-4 città coinvolte nel programma, che è vastissimo e va in onda nel nel weekend che ci attende. Noi però vogliamo segnalare delle partecipazioni che per chi segue gli scenari internazionali sono particolarmente interessanti. Per la precisione, Jeremy Rifkin sarà il 2 aprile alle 20.30 al Mart di Rovereto, il 3 aprile sempre al Mart di Rovereto e sempre alle 20.30 ci sarà Farid Zakaria, direttore di Newsweek e un spesso, idolo di Jefferson. È un idolo di Jefferson. E un altro nome di grande richiamo è quello di Richard Florida, autore di Use Your City, direttore della Martin Prosperity Institute, che invece sarà a Maniago, la qualità dell'impresa che c'è di nuovo nella competizione, questo è il titolo dell'iniziativa di Maniago, ma invece sarà a Maniago il giorno 5 aprile a partire dalle 17.30. Richard Florida. Presidente 44. Obama alla Casa Bianca. Obama alla Casa Bianca e probabilmente presto anche una rappresentanza Fiat, chissà, verrà invitata. Un incontro di cortesia, uno di questi ormai già celebri tè alla Casa Bianca offerti da Michel. Sono molti messaggi che ci arrivano anche via SMS 349-238-6666. Poi sembra di stare a casa, è tutto un nomignolo, soprannome. Ci scrivono Bibi, Fede, Dan, Simo. È un'Italia di amici. Simo dice: qualcuno dica a Obama che la Fiat ha ricominciato a fare auto decenti quando lo scorso governo Berlusconi si rifiutò di elargire aiuti pubblici. Insomma, carote e bastone, anche Roosevelt la pensava così. Dan vorrebbe non aver rottamato la 1 di suo nonno perché magari pensa a un mercato di esportazione. Fede deve essere esperto di oroscopi, di astrologia. Dice: Michelle e Carla sono due capricorne ambiziose, l'incontro è a rischio, ma se ci sarà armonia tra i mariti potrebbero simpatizzare, coalizzarsi, diventare amiche. Voilà. Qui ne sappiamo veramente una più del diavolo. Bibi, molto maligno, chiede se Mario Chiesa fa parte della rappresentanza. Speriamo che la notizia venga tenuta nascosta al G20 per non fare una figuraccia, ammesso e non concesso che sappiano questo nome che cosa evoca. Noi invece, più che evocare, invochiamo l'aiuto di Umberto Bertelet, presidente del MIP, la Business School del Politecnico di Milano, per approfondire un po' le tematiche relative a questo grande affare, o prospettiva di affare o di accordo, chiamatelo come volete, tra Fiat e Chrysler. Ma per tutto salutiamo Bertelet, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie dell'invito, del nuovo invito. Dunque, prima di tutto io vorrei farle spendere una parola su Wagoner, il caro estinto, non so come dire, di questa storia, che è stato liquidato, mi sembra, con una tale freddezza e anche inevitabilità dai media di tutto il mondo da sembrare un po' un convitato di pietra. Ma cos'è? Hanno tenuto lì per tanti anni, poi mi sembra, un uomo del del tutto incapace. Com'è possibile? Un top manager viene così tagliato, secco, e nessuno dice una parola. Come la vede? Io ho un parere, diciamo, a due facce. Da un certo punto di vista, il fatto che il governo abbia mandato via un manager di un'impresa che comunque rimane molto grande, al di là dei risultati estremamente deludenti, avrà probabilmente conseguenze non piccole nel sistema statunitense, certo. Nel senso che da una parte dell'opinione pubblica è letta come un segnale di crescente ingerenza del governo negli affari delle imprese private, certo. Anche se chiaramente questo a fronte di soldi che vengono dati. Dall'altro, se devo dare il mio parere personale, era un pezzo che mi chiedevo perché fosse lì. No, certo. Nel senso che non è beccata una giusta. Certo. Il sistema americano, che poi tutti noi tendiamo delle volte ad apprezzare al di là del normale, tende però per queste imprese, cosiddette public, quindi ad azionariato molto diffuso, a dare a chi è al potere un potere di rimanere molto forte. Ma infatti diverse persone oggi discutendone si chiedevano una cosa che sembra evidente, ma forse non è così tanto, ma avevano bisogno della Fiat, per esempio, per alcuni aspetti tecnologici, insomma, per avvicinare o riavvicinare un mercato che sembra lontano, ma un marchio come Chrysler aveva bisogno di un marchio come Fiat? Vede, il giudizio che viene espresso in questo momento sulla situazione di Chrysler dall'amministrazione Obama, ma credo che sia un giudizio abbastanza condiviso, è di un'impresa un po' alla frutta. Certo. Un'impresa un po' alla frutta perché ha avuto dei colpi abbastanza forti dal punto di vista del mercato e forse ancora di più perché non è assolutamente in grado, per come era strutturata, di offrire una gamma di prodotti che sembrano più adatti per la nuova stagione post-crisi, augurandoci, certo, che la crisi finisca. Quindi macchine un po' più piccole, macchine ambientalmente più efficienti, nel senso meno dannose, con minori consumi, eccetera. Ecco, quindi è un'impresa che è stata giudicata dal governo americano e dalla commissione che l'ha seguita come non assolutamente in grado di muoversi da sola, a differenza di GM, che comunque rimane una delle due imprese che fino a poco tempo fa ha prodotto più auto al mondo, certo, circa 9 milioni di auto all'anno. Quindi anche al di là, insomma, dell'entusiasmo, anche di una certa euforia che è diffusa in queste ore, soprattutto da questa parte dell'Atlantico, però la ripartenza, diciamo, non è una garanzia, una certezza, no? È ancora una scommessa. Ma io credo che sarà da lavorarci molto. Sicuramente è un brand che è conosciuto, anche se ha avuto qualche travaglio, ha una rete distributiva per quanto riguarda gli Stati Uniti, non gli altri paesi, è piuttosto interessante, ha bisogno di avere appunto disponibilità di tecnologie, di modelli nuovi per poter andare sul mercato, può rappresentare, naturalmente, purché i costi non siano eccessivi di questa operazione, un modo per la Fiat per ritornare, certo, sulla, certo, scena americana. Certo. Credo che dovrà lavorarci parecchio Marchionne, però. Dunque, per concludere, le chiederei, Bertrè, un commento a questa agenzia che è spuntata 10 minuti fa, è stata battuta pochi istanti fa, anche per aiutarci a capire, perché questo scenario di incertezza e forse anche che si va producendo sotto i nostri occhi via via è un fatto reale. L'agenzia recita che General Motors potrebbe chiedere la bancarotta prima della scadenza dei 60 giorni se gli accordi non saranno raggiunti. L'avrebbe detto l'amministratore delegato di GM, Fritz Anderson, riferendosi agli accordi richiesti dal governo americano come condizione per ricevere nuovi aiuti dopo la bocciatura di ieri. La decisione di un'eventuale bancarotta sarà presa in consultazione con la task force. Quindi esiste davvero questa ipotesi? No, questa è una delle ipotesi più probabili. Nel senso, cioè, che le cose vanno così male che il paziente... No, ormai... un secondo, se mi permette, certo, mi dà due minuti, certo, per cosa. Ecco. Nel caso di Chrysler cosa si dice? Siccome il governo ha detto per l'una e per l'altra società, ammesso che la cosa sia credibile, se non fate le bravi mando alla bancarotta totale, nel caso Chrysler questo dovrebbe essere un qualcosa che aiuta la società o la società con Fiat a trattare per una riduzione dei debiti forte e per una riduzione diciamo, tra virgolette, privilegi del mondo del lavoro. Sì. Sempre naturalmente che si avvisi dall'altra parte la convenienza o la paura che le cose vadano peggio. Per quanto riguarda il GM, per cui invece si pensa che continui a vivere come dipendente, anche se ridimensionata, l'ipotesi più probabile è un'ipotesi di quello che gli americani chiamano il Chapter 11, una sorta di amministrazione controllata, di legge Prodi Marzano, e quindi di una crisi pilotata in cui dividere la compagnia in una parte buona, la solita bad company. E caricare, certo. Quindi l'ipotesi che nei 60 giorni, a circa metà, possa venire un'operazione, come è stata definita, chirurgica, controllata, supportata dal governo, in maniera da rimettere il pezzo di società sano, in grado poi di rimanere in vita, è tra gli scenari che al momento viene ritenuto più probabile. Va bene, è uno scenario interessante, complesso, tra l'altro ci sono anche molte mail, gliene leggo una al volo, magari può dare una risposta telegrafica. Scrive un ascoltatore, dice a Detroit stanno messi male anche grazie ai sindacati e alla sciaguratezza di aver accontentato i trade unions. È vero, c'è un ruolo in negativo giocato dai sindacati in questa situazione? Lei sa che c'è una differenza molto forte fra l'auto americana Detroit e l'auto americana prodotta in altri stati per grandi produttori stranieri come Toyota o alcune delle case tedesche. Certo. Cioè Detroit, per tradizione, che ha avuto un ruolo politico molto forte, dice anche che i sindacati di Detroit siano tra i grossi finanziatori della campagna di Obama, anche se un po' traditi da quello che sembra adesso, ha un trattamento del lavoro molto molto più favorevole. Certo. La ringraziamo e seguiremo ancora, se ce lo accorda, con la sua collaborazione questi scenari. Umberto Bertelli, presidente del MIP. Qui ormai facciamo finta di essere parte del grande gioco, parliamo di miliardi di dollari di qua, finanziamenti, bailout, quant'altro. Noi che insomma, una piccola trasmissione, piccole osservazioni su questo mondo enorme, dove anche se si parla di arte ci si ritrova a parlare di milioni, miliardi, finanziamenti di qua, Damien Hirst vende il teschio a 75 milioni e poi Jeff Koons, artista fra i più stravaganti, geniali, bizzarri, forse anche molto furbi della scena americana, che riceve in questi tempi di crisi, di pianti, di lamenti collettivi e soprattutto di espiazione, perché questa è la parola chiave, riceve una commissione dal Los Angeles County Museum of Art da 25 milioni di dollari. In America c'è una parola che è pork, no? Soldi buttati in maiale, insomma, in spezzature di maiale, per far che cosa? Per fare un'opera d'arte da collocare all'esterno, naturalmente, del suddetto museo di Los Angeles, che consiste praticamente in una enorme gru, una gru, una vera gru, con appesa una vera locomotiva di treno, peraltro funzionante, con la ruota che gira, il fumo che esce. E dietro tutta questa storia poi una figura italiana che ci interessa analizzare, ovvero quella di Renzo Piano. Per fare tutto questo abbiamo chiamato il nostro amico Francesco Bonami, che è curatore del Museo d'Arte Contemporanea di Chicago, direttore di una grande biennale di Venezia che sollevò polemiche, interesse, discussioni e quant'altro, che prima di tutto salutiamo. Ciao Francesco. Buonasera, come va? Bene, bene, da New York ci stai parlando, probabilmente in pigiama, supponiamo. Nudo. Allora, questo, dunque, prima di tutto io so che tu conosci e peraltro anche apprezzi Jeff Koons, che in Italia lo si chiama in causa solo quando si parla di Cicciolina. Invece ci spieghi, ci definisci un momento, perché poi, insomma, ancora non gliel'hanno dati, ma si discute seriamente di dare così tanti soldi a Jeff Koons. Cosa rappresenta? Jeff Koons, sì, ho fatto una mostra al museo l'altro anno di Chicago, si chiama Retrospettiva, 30 anni della sua carriera. Jeff Koons è una delle figure più controverse, forse più interessanti dell'arte americana. La locomotiva di cui si parla a Los Angeles, intanto gli era stata data l'idea prima della grande crisi, prima della grande caduta. Lui continua a lavorarci, ha dietro di sé Eli Broad, che è questo grande imprenditore immobiliare di Los Angeles, che ha fatto costruire appunto la nuova ala a Renzo Piano del museo, dove nella piazza andrà davanti questa grande gru. Una gru vera, una che vera nel senso che si muove, ma ricostruita pezzo per pezzo da Koons in Germania, chiaramente alleggerendola per poterla fare funzionale verticale e non orizzontale. Koons è un grande nel suo modo di interpretare la storia. Lui si sente praticamente amico di Michelangelo e di Leonardo. Non ha nessuna se Leonardo e Michelangelo scendessero oggi a casa sua, lui li accoglierebbe con grande amicizia in via a pranzo, senza nessuna sudditanza, particolare emozione. Ecco, ma so che è una domanda che a un critico non bisogna mai fare, anzi è del tutto fuori luogo, ma questo progetto, questa idea ti piace? Beh, questa idea mi piace come idea, come lui reinventa il grande campanile, come in Piazza San Marco c'è l'orologio che esce fuori, le figure che escono fuori scandendo l'ora, lui certo. Lo ripensa in maniera americana. Certo. Attraverso la storia dell'America, attraverso questa locomotiva che rappresenta appunto Griffith, i figli Griffith, no? Certo. Rappresenta questa la grande frontiera, lui reinventa la torre che scandisce le ore con questa in questo immaginario tutto americano. Mi piace questa idea qui, questa capacità dell'americano di vedere la storia, di trasformarla continuamente, e dell'ambizione. Bisogna dare atto che Koons ha un'ambizione da un punto di vista di realizzazioni sfrenata, che non è come noi vediamo in Europa soltanto legata al fatto monetario. Lui vuole fare una grande opera. Certo. E devo dire che questo tuo suggerimento che fa sovrappone la visione di questa gru, la visione del campanile, mi sembra particolarmente suggestiva. Francesco, mi spieghi questo ruolo che mi sembra crescente, importante, sempre più incisivo, che una figura come Renzo Piano sta giocando sugli scenari americani, magari tra alti e bassi, ma insomma è diventato veramente un deus ex machina della scena americana. Renzo Piano ha il 16 maggio una nuova grandissima ala molto bella dell'Art Institute di Chicago, ha aperto questo Los Angeles County Museum e ha avuto tantissime altre commissioni, è tanto che lui lavora, costruito la bellissima Menil Foundation a Houston, che è uno dei capolavori museali degli anni 70-80. Piace. Renzo Piano si oppone, diciamo, lui, io dico sempre che lui ha uno studio insieme a persone come l'olandese Rem Koolhaas o Enzo De Meuron, perché loro propongono progetti forse visionari, forse futuribili ma irrealizzabili, e gli vengono sempre bocciati, e dopodiché interviene Piano e prende lo suo. E secondo me sono in studio insieme. Senti, telegraficamente, l'ultima cosa che volevo sapere, di fronte alla famosa crisi di cui parliamo a ogni piè sospinto, un'operazione come questa di Kunz non viene moralizzata, cioè non ci sono censori che sulla scena americana intervengono a dire ma che buttate questi soldi per queste cose, succede o no? Ma per ora di solito succede, questa è un'opera di arte pubblica, un'opera che non si sa mai quando sarà realizzata. Certo. E credo che insomma è stato fatto anche a Chicago nel Millennium Park, dove hanno speso 13 milioni di dollari per fare il grande fagiolo di Anish Kapoor. Certo. Davanti all'arte pubblica c'è una certa remissione, sicuramente ci sono i critici che dicono cosa fate, ma però c'è anche questo grande senso di orgoglio di riuscire a realizzare queste grandi cose, appunto molto popolari per un grande pubblico. Quindi sì, la critica c'è, però non così come la vogliamo vedere noi. Bene, grazie a Francesco Bonami che ci ha spiegato anche la simbologia di questa gru con annessa vera locomotiva ricostruita ad opera di Jeff Kunz, forse un giorno sulla porta del Museo d'Arte Contemporanea di Los Angeles. Aspettiamo Francesco in visita quando passerà da queste parti qui in Italia a parlare di arte contemporanea. Ecco, il G20 non è ancora cominciato, ma già litigano, che è un piacere, sarà uno spettacolo da seguire tipo tutto il calcio minuto per minuto, perché il presidente Nicolas Sarkozy è determinato, questa è un'agenzia di 7 minuti fa, è determinato a lasciare il summit del G20 di giovedì a Londra se non saranno adottate misure concrete per rilanciare l'economia globale. Lo ha dichiarato il ministro dell'economia francese Christine Lagarde alla BBC, confermando le affermazioni di Sarkozy. È stato chiaro su questo piano, dice, se i risultati attesi non ci saranno, non firmerò il documento. Sarkozy protagonista, se a Londra non ci saranno progressi, ci sarà una sedia vuota, mi alzerò e me ne andrò. Tutto questo a Jefferson 2, l'arte della svolta. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, a regia di Roma è Valerio Rocchetti, la regia di Milano è Pietro Lacorte, la mail è jefferson2@radio24.it. Due pagine Facebook, una per parlare con noi, si chiama redazione Jefferson 2, una per partecipare ai nostri dibattiti, si chiama Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. Iscrivetevi numerosi, la trasmissione va in replica a mezzanotte, il podcast è sul sito della radio, la diretta è domani qui alla 4 da Radio 24. Yes, she, 来手去都只是游戏。